con ulteriori innovazioni che faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e le soluzioni che ci sembreranno più interessanti, a partire da quelle sulla trasparenza informativa e sui Kinect, intendiamo portarli su molti altri negozi della nostra rete di vendita, non solo negozi nuovi ma anche negozi che, su cui interverremo con ristrutturazioni, con interventi di miglioramento. I vantaggi per le persone che frequenteranno il negozio saranno una facilità sull'informazione molto significativa, noi speriamo anche un ambiente favorevole che possa favorire lo scambio tra le persone, una piazza aperta, pur essendo un negozio concentrato sul libero servizio, cioè non ci sono banchi serviti se non tutta la parte di ristorazione che è collegata al negozio. Quindi noi pensiamo che si possono usare le tecnologie per dare più trasparenza e informazione, e questo è molto domandato oggi dai consumatori, è cresciuta enormemente la richiesta di informazioni sui prodotti, sul loro uso, sulla provenienza delle materie prime eccetera, sull'impatto ambientale, e questo lo si può fare con queste tecnologie ben oltre le etichette dei prodotti, e in più pensiamo che possa essere anche un formato, diciamo così, di evoluzione tra il vecchio concetto di supermercato e una nuova idea di come si può fare la spesa e si possono fare gli acquisti. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo di viaggi, nuove formule e nuove mete. Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Come fa a sopportare questo paese? Che cosa ci vede che io non vedo? La luce, i colori, i sorrisi. C'è così tanto da vedere. Crede che staremo bene? Vedrà che staremo meravigliosamente. Focus sui trend. Dagli spot degli aeroporti a quelli dei centri termali, passando per la rivoluzione dell'home sharing, le comunità per i viaggiatori silver e infine gli hotel brandizzati. Nella trasformazione che sta attraversando il turismo emergono anche le voci e i progetti di protagonisti tutti nuovi sulla scena dell'accoglienza. Sono i casi che raccontano nuovi modi di comunicare e anche di vivere il viaggio. Li ha trovati per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te, un saluto a tutti quanti. Da dove partiamo? Direi di partire da un aeroporto, parlando di viaggi e parlando di Natale, un momento di grandi spostamenti. L'aeroporto di Heathrow, l'aeroporto di Londra, per festeggiare i suoi 70 anni ha lanciato già dal mese di novembre uno spot che ha fatto parlare, sicuramente molto caldo in vista del Natale vicino. Un aeroporto che vede protagonisti due orsacchiotti che arrivano all'aeroporto e percorrono proprio tutti i vari passaggi, le scale mobili, il controllo passaporti, quindi tutti i servizi, diciamo, tutte le indicazioni, tutti i momenti per ritrovare poi i propri cari. Nel momento dell'incontro, momento finale, l'abbraccio è fra dei nipotini che corrono e gli orsacchiotti che in realtà sono due nonni. Il percorso dell'aeroporto, dei propri servizi, del proprio layout, della propria accoglienza, del farli sentire a casa, ripercorre proprio anche un'attenzione in particolare verso i senior, sempre più al centro dell'attenzione, ma è anche interessante vedere il claim finale di questo spot: tornare a casa è il regalo più bello, quindi l'aeroporto non è più quel non luogo asettico e lontano, ma un luogo che si fa prossimo, che si prende cura delle persone, che ascolta le persone, e in effetti sempre più il mondo dell'accoglienza, aeroporti, alberghi, luoghi di passaggio, luoghi di servizio nei nostri spostamenti, sono sempre più attenti al servizio, sono sempre più diversificati, ma il senso di relazione e ascolto, di cura e di proattività sono sempre più al centro dell'attenzione. Beh, a conferma del fatto, insomma, della forza dei servizi, anche la notizia che è circolata qualche tempo fa di Ryanair, che sta pensando addirittura a un'offerta di voli gratis supportati proprio dai servizi degli aeroporti, insomma, che stanno diventando essendo un cuore economico forte dell'offerta turistica, come dicevi. Impossibile parlare di rivoluzione del turismo senza parlare di home sharing, un caso su tutti ovviamente, quello che ha fatto scuola e ha aperto il mercato Airbnb, che non solo sta lanciando nuove formule ma si allea anche con nuovi partner, è così Sabrina? Iniziative a Airbnb non mancano, fra l'altro hanno già lanciato, ma partirà a gennaio, da gennaio a maggio 2017 a Parigi, 100 giorni in cui le persone potranno vivere l'esperienza di alcune case tipiche finlandesi. Il partner in questo caso è l'Istituto Finlandese a Parigi e hanno ricreato sulla Rive Gauche un luogo con 6 cabine di legno che possono ospitare 12 persone, ma queste 6 cabine si affacciano su uno spazio comune per vivere proprio un elemento di collettività, di vita rispetto a quello che in Finlandia è la casa, tanto che questa, chiamiamola installazione, questo nucleo si chiama proprio koti, che in finlandese significa casa. È interessante anche qua ovviamente il coinvolgimento di architetti, quindi voglio dire c'è anche questa particolarità di coinvolgimento estetico oltre che culturale e poi un coinvolgimento durante questi 100 giorni di esperienze anche di intrattenimento, concerti, conferenze, proiezioni di film, esperienze di vendita, negozi pop-up. Un'installazione comunque prenotabile come qualsiasi altro alloggio sulla piattaforma, è così Sabrina? Assolutamente, sì, è prenotabile, le doppie costano attorno a $227, una cabina di famiglia compresi due letti a castello, 363 a notte. Per il prossimo caso invece ci porti in Giappone. È un caso curioso, anche qua attorno a un video, a uno spot, ma una cosa più semplice, ma che ha fatto il giro del mondo, praticamente il sindaco di un paesino dell'isola di Kyushu, in Giappone, Beppo si chiama, ha voluto lanciare una particolarità della cittadina che è ricca di sorgenti termali e ha alcune spa. Lui per incrementare diciamo anche un po' gli affari e la conoscenza ha lanciato su YouTube il 20 novembre, ha caricato un video dove si vedevano montagne russe fatte con vasche di acqua calda e un intero parco giochi termale, ridenominato Spa Amusement Park Project. Lanciando questa sfida, se riceviamo un milione di visualizzazioni lo realizzeremo. Così era un gioco, una sfida. Di fatto, dopo pochi giorni ne aveva quasi 2 milioni di persone, per cui ora si è impegnato. Si è messo a nei guai. Davvero. Si è messo nei guai, assolutamente. Però allora questa cosa la deve realizzare, quindi la aspettiamo. Nel mondo del turismo c'è una categoria molto forte legata ai cambiamenti demografici, lo accennavi anche tu nel primo caso Sabrina, sono i viaggiatori silver, gli over. Certo, e sempre più iniziative si stanno rivolgendo a questo pubblico o comunque prendendo da questo pubblico alcuni valori, alcune esigenze e affinità di servizio, diciamo. Parlo ora di un caso che è stato lanciato in Irlanda, poi nel Regno Unito, ma che da un paio di mesi è stato presentato anche negli Stati Uniti. Si chiama Free Bird Club, è una community aperta agli over 50 che si propone come un club internazionale peer-to-peer ad iscrizione, sia per viaggiatori che per ospiti. È una sorta di Airbnb tra coetanei, però più attenta, in particolar modo attenta agli aspetti di socialità con quei valori che persone, diciamo, senior desiderano avere. Quindi i viaggiatori vengono accolti dagli ospiti nelle loro case private, dove trovano compagnia e momenti di socializzazione, oltre che un luogo accogliente dove soggiornare. L'ultimo caso invece, Sabrina, apre il tema degli hotel griffati, brandizzati. Un fenomeno che ha interessato inizialmente tutto il mondo della moda, ovviamente, ora si sta allargando, ma l'ultimo caso che ci racconti va oltre questa filosofia, il brand Swatch. Si chiama Swatch Art Piece Hotel. hotel a Shanghai, ci interessa perché oltre il proprio servizio di hotel ma anche punto vendita propone una residenza per artisti, cioè proprio un luogo dove artisti provenienti da tutto il mondo possono vivere e lavorare. Gli artisti che vogliono presentare un proprio progetto sono invitati a vivere e lavorare per un periodo dai 3 ai 6 mesi in appartamenti disposti su 2 piani, componendo sempre una comunità di 18 persone di culture, paesi diversi e con diversi progetti artistici. Quindi hotel, negozio e galleria d'arte tutto in uno in pratica. Assolutamente, fra l'altro c'è solo una tassa di iscrizione, ovviamente bisogna sottoporre il proprio progetto, c'è una selezione, ma la tassa di iscrizione pari a 30 franchi svizzeri viene interamente devoluta a Medici Senza Frontiere. E a novembre questo Swatch Art Peace Hotel ha festeggiato il suo 5° anniversario con un Open Studio Day per visitare appunto questi spazi, le esposizioni, con una mostra in collaborazione con l'11ª Biennale di Shanghai e anche con il lancio del progetto di cui in una precedente trasmissione abbiamo parlato con te, il progetto Sound of City di Chiara Luzzana, che lei ha raccolto ascoltando i suoni, raccogliendo quindi la colonna sonora di molte città, Zurigo, Tokyo, New York, Milano, Venezia, eccetera, e quindi proprio l'intero progetto è stato presentato per questo 5° anniversario dell'hotel. Un progetto bellissimo, quello di Chiara Luzzana, di cui appunto avevamo già parlato, che ci è caro, insomma, sul quale ci fa piacere assolutamente richiamare l'attenzione. Grazie, Sabrina Donzelli, alla prossima. Grazie a te. Il consumautore. I consumautori siamo tutti noi, sempre più protagonisti, informati, responsabili nelle nostre scelte di consumo e di vita. Sono le riflessioni che accompagnano il nostro dialogo con Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Per questa puntata, me lo hai anticipato, hai scelto il tema dell'empatia. Sì, dell'empatia che viene raccontata in modo molto piacevole anche per non addetti ai lavori all'ultimo libro di Giacomo Rizzolatti, che è il grande papà, diciamo, della ricerca sui neuroni specchio, che dialoga con Gnoli, quindi con un filosofo, giornalista, e il libro si chiama In temi specchio, per una scienza dell'empatia, e io credo davvero che se vogliamo comprendere meglio i nostri consumautori dobbiamo ripartire da questo assunto. Le persone e il cervello delle persone riconosce chi si ha di fronte addirittura in modo istintivo, quindi ci sono i neuroni del movimento che reagiscono e non solo la dimensione cognitiva. Quindi se io guardo qualcuno mangiare si attiva il mio neurone non solo della fame ma anche proprio del movimento della mano che afferra il cibo. Quindi come nelle relazioni personali anche in quelle commerciali, quindi per i brand recuperare l'empatia vuol dire essere vincente. Quali sono gli elementi su cui puntare? Allora, l'elemento principale è capire che negli ultimi 30 anni questa intuizione che ci specchiamo negli altri è stata usata solo in termini persuasivi e d'immagine, no? Cioè, quindi io osservo un nuovo prodotto, una campagna e sicuramente rimango colpito. Quindi questo funziona e ha funzionato. L'elemento però di novità è che non ci basta più, cioè vogliamo identificarci anche poi nei valori che quel prodotto propone, che quel brand propone, quindi rimaniamo sicuramente sensibili a ciò che ci viene raccontato, ma facciamo una serie di verifiche incrociate che prima non erano possibili. Quindi usiamo i social network e ci confrontiamo anche con le persone che ci circondano e di cui ci fidiamo. Egoismo e solidarietà è la contrapposizione citata appunto nel libro. Per le aziende significa passare da una dimensione di profitto e basta ad una di profitto e impatto sociale e condivisione dei valori. Sì, perché la bella novità è che oggi queste due cose possono andare di pari passo. Cioè noi siamo stati abituati a pensare che la soggettività, l'individualismo fosse contrario all'idea anche di socialità. Oggi invece, proprio attraverso i neuroni specchi, sappiamo che si può essere competitivi dal punto di vista del business, ma nello stesso tempo anche attivare una visione solidale, una visione di condivisione. Queste due cose normalmente funzionano insieme.